Buonasera a tutti e grazie di essere venuti qua. Dico due cose veloci. Io sono Paolo Bellati, della Terra Trema e del Folletto 25600, che sono due progetti che da circa 10 anni lavorano sui temi dell'agricoltura a livello locale ma anche a livello nazionale, con un centinaio di vignaioli e agricoltori sparsi un po' per l'Italia. Lavoriamo sui temi dell'agricoltura e del territorio. Negli ultimi mesi, ma in realtà da anni, stiamo lavorando con Domenico Finiguerra e con l'esperienza Cambiamo Abbiate Grasso. Soprattutto stiamo attraversando questa esperienza, stiamo collaborando con questa esperienza, guardando e portando il nostro portato dentro in questa avventura. Secondo noi oggi è l'inizio di un percorso che speriamo possa avere un seguito, cioè incominciare a parlare di agricoltura e parlare di territorio con le persone che vivono il territorio, con gli agricoltori soprattutto, perché pensiamo che questo sia un aspetto che, nonostante storicamente questo territorio ha una vocazione agricola, di fatto non ci sono state politiche, non c'è uno sguardo su quello che succede rispetto a questi temi. E quindi, a nostro avviso, la possibilità con Domenico, con Cambiamo Abbiate Grasso, con esperienze che ci sono in questo territorio, di sviluppare una progettualità seria finalmente, o quantomeno tentarci. E quindi l'inizio potrebbe essere stasera, nel senso che comunque abbiamo invitato parecchi agricoltori del territorio, spero che ce ne siano e qualcuno l'ho visto che, diciamo così, non è nel volantino ufficiale, però potrebbe essere interessante sentire la propria esperienza e incominciare a interloquire anche con i cittadini, diciamo così, che non fanno questa professione. Proprio per questo, perché riteniamo che sia ora di provare a sviluppare una serie di cose intorno a questa tema dell'agricoltura e del territorio. Cioè, noi viviamo in un territorio che sta subendo negli ultimi anni una serie di cambiamenti geomorfici di tipo potente, nel senso che abbiamo avuto dei PGT che negli anni, questa amministrazione e le precedenti, scellerati, non abbiamo visto un serio investimento sull'agricoltura, non abbiamo visto interloquire con i contadini, con gli agricoltori di questo territorio, e nel frattempo vediamo il nostro paesaggio cambiare, e quindi un paesaggio che cambia vuol dire un cambiamento di tipo, diciamo così, paesaggistico, ma vuol dire un cambiamento di tipo economico, lavorativo, sociale. E su questa cosa nessuno fa delle riflessioni. Ci sono aziende agricole che chiudono, parecchie hanno chiuso, ci sono aziende agricole che fanno fatica a continuare a fare il loro lavoro, ci sono aziende agricole che cambiano il loro modo di produrre e ci sono aziende agricole che invece da sole, senza un aiuto, diciamo così, istituzionale, senza un aiuto amministrativo, sviluppano dei percorsi virtuosi e interessanti. Per adesso mi fermo qui. Volevamo iniziare la serata con un video. È una narrazione che secondo noi potrebbe essere di stimolo alla chiacchierata che poi faremo con Domenico Finiguerra e con un po' di agricoltori che abbiamo invitato, con l'idea che, insomma, per noi come Terra Trema, ma come gruppo Cambiamo Abbiate Grasso, Domenico Finiguerra sindaco, lo sguardo attraverso l'agricoltura, attraverso i temi dell'agricoltura, è fondamentale per immaginare un modello di sviluppo differente, per cambiare questa porzione di territorio, per valorizzare quello che abbiamo in questo territorio, ma anche per avere uno sguardo più ampio in tutto il paese e, senza esagerare, uno sguardo globale e planetario. Giuseppe, che è l'agricoltore che è protagonista di questo film documentario che è un'autoproduzione, secondo noi ci dà degli stimoli. È un agricoltore siciliano che noi abbiamo conosciuto in Sicilia e niente, io farei partire il video e poi iniziamo con Domenico e con gli agricoltori che abbiamo invitato. Buona serata a tutti.